cari, sono vestiti marinari, sono vestiti marinari. Yeah. E dalla radio l'onda del mio cuore vorrei dirti tante cose, ma di tempo non ce n'è. Amore mio, lo sai, non so volare, sento il mondo scocciolare, scocciolare dentro me. Allora scrivo questa cartolina a una bella signorina, signorina come te. Sei tu la mia anima, sei tu la mia isola blu, sei tu la mia favola. Sei diversa pure tu. Se ritornasse tutto come prima, quella strada, quella vita non ti piacerebbe più. Ma oggi la mia testa è chissà dove, giro per le stanze vuote della mia malinconia. Aspettavo la stazione senza infami, senza lode, un'altra estate vola via.